Fini presidente della Camera, è difficile che un politico che dopo tanti anni possa commuoversi, eppure a me oggi è capitato, credo che sia capitato a molti che come Gianfranco hanno compiuto un percorso nella vita politica che è sotto gli occhi di tutti, un percorso trasparente, un percorso al servizio delle idee. L'elezione di Gianfranco Fini a presidente della Camera fa bene alla politica con la P maiuscola.